un pochettino così di poca pletta, perché sono di lutto fresco, sono, è morta mia madre la settimana scorsa, io di 20 giorni, quindi non sapevo cosa fare e ho anche una rotazione, riprendi. È fatto bene Gianni, è fatto bene, io ti faccio le mie condoglianze e anche la mia, 3 mesi quindi, è così, bisogna andare avanti, non bisogna fermarsi, loro ci hanno insegnato questo e noi dobbiamo apprezzare quello che ci hanno insegnato. Guardate, no, io sono Carletto e mi computa e mi accorda sia 80, 140, 430 e 440. Aspetta, dove c'è qua? Adesso lo farò anche apparare, quanto lo trovi tu quello? Io l'avevo dato e poi me lo sono ripreso, fortunatamente l'avevo trovato su eBay da un radiomatore di Faenza e me l'aveva fatto pagare 450 euro più il trasporto, è ancora quotato moltissimo, 250, c'è gente che lo sta cercando.